De là del mur di Delio Tessa. Fera de portavolta, de paese in paese, alla lunga discesa, pedalavi in la molta della cumasna, vuna d'estimatin passà. Messeri de sedà con tante grinta, in luna sbiesa e in setun sul let, pensavi. Cosa femi in che? Le festa, andem, aria, desti fudret, mevet, te sentet no la pendula, madonna, in un uvur che sona e sunt in letta mo. Gio, custigam, courage, ciapa la porta e prova la bicicletta neva. A seri de viaggi, dunca, ed è mia in mia, in tan che pedalavi, quietin, quietin, guardavi la campagna drevia, guardavi i camp, i pra noster, chi de Milan, chi Carpataflon, di noster pra, setà denter in la shighera, denter a mei qui so fir de muron, qui so me de ganga, in filera, gio, gio, lunga e lunghera. Casin, casinot, paese, paesot, sgreg, pien de viran. L'era una mattina grisa d'utuber, senza il vul d'un passer, senza sul. L'inverna, quei che pisa, rivena adesso in tropa, e la terra per lur la se smunta de culur. Un automobil, stoppa, stoppa, stoppa! A manzina, chin sci, oh che bella stradiola, macchin, macchin, la spela fan! E vugio de chi? Gab e Gabet, firan, terassuta, che gira intorno al 1000 lire la pertega. Dan per me, che genuminga. Anca fa l'avvocat. Ah, te che poc de sbat. Client che te siringa, l'irma, e il padron de ca, la luce, il calorifer. La storta del kifer che bisogna truvà. La teta de tetà. Cantel. Cisto, cantel, sapà patati, quel magara le defà. Tornà, come il frigeri, alla scima di scim, al carreu du regim, al viro, ai sumeneri tornà. Tellau pabula, sulusca il tempul strolega. Abate gla catolega, previ d'una parola. Oi, vu, regiù, disi, capa es lecuschi. Ale Mumbel, ale. Mumbel, che strano effetto me fan certi parol, tra cap e col, piumben e m'insarzisen lur, per diur e diur, chi calavron che ronza, regnen in del cusun, tanche m'insurmentisen. Tisen, nivul, fantasma, nebi, sit, omen, idei, un mund. Mi disaris, ch'inturna tutto un mund che se forma. Rim che resonen, v'una la chiama l'altra, a campana, din don, din don, din don, e via, e via, te filet via. Vul de fantasia! Mumbel, Mumbel, dila, redila quella parola lì, e poi turnela di, e allora te comincet a sciaris, a capì. Bula d'aria nell'aria, parola solitaria. Ferma, ferma, ferma, ferma, ferma, ferma, ferma, ferma, che se culura. La te danò l'idea d'un sit avert e voi? Te vede mingo un pra. Ma per vedel pulid, te gede sarà ieci, perché l'è un pradesel quest, che te par come da velge muove du, un'altra volta. Di. Ah sì, a corda mola, fra un busc e una muraia, una mattina, in sogno. Meseride se dà con tante grinta, in luna stramba e in setun sul let, con una gamba su e l'altra giù. Pensavi, tra la vune i do, vanni, chi pescia tu ni to, tu ta turna a let, perché te mero tu let sul cu, dicevi, tas che il sequieta giò, tas, forse il mangia un limon, o forse, ma no, senti che il se beva mo, che il torna a camminare. Oh, sì. L'en del fund della tomba, di suo penser, che l'uma e il tasta, le come se l'andasse a dre a una nasta. Sentila des che il va in sala, de là, alla mattina pe, alla mattina dopo, che lì di numerit, e su una carta scritt, oh bel, not sogn, fia della mamma che dorma, ma se il plafun e le sgrisa, presunè che cammina, disi che le torna de chi, per dopo la mattina, quando il sede sgarbia, trovas in del cifon quell'urinari ras de Pisa. Oh bel, not sogn, not i pe, sent chi pe, mi senti sul cu, fin tant che mi indurmenti a dre. Oi, not sogn, bugiogio, tenebrur del sepulcher, vanni chi pesciatunito, vanni chi capelluni neger, chi cascianivul, se pudesse curtam, ma pes no, un'ideina pena, e le quel devesmo insugnà, che il Gianetti e il Vanni e il Cruz pasculaven in d'un pra, mutigaven cru, e savevi quel che sì, quel pradesel rapà, sì, l'era giuste, e quella mura, cru, quella riga bianca, lunga, ed e chi tri, vin col pugn alla muraia, pum, al di là del mur cantaven, pum, veder, tremur, rubetit sul marmur, vus, e chi culp, vus, coste futet, flit, pompa del flit, sente il pancia come il salta, come il picca, flit, l'ha visto un sansarun. Là in quel turbur de chi so penser che il pica, flit, che il pica alla stramesa, par che il veia vegni fera, flit, un bus e vegni fera, un bus, pompa del flit, pantupon, calmin, uvia mi du parolet per ti, chien un sedobrol, un dial che te calma, che te met quiet. Arbor, un pradesin verd. Arbor, varda, una finestra verta su chi prim but. Studi di riga bella. Telefona la custanza per saver cosa la vera mesdì. Cutulet fred. Rispondere da quella stanza. Cutulet fred. In chi do parulet chi, char, che te se resciara, che te padima lì. In chi pesse già sa che cambien ai malà della fevera alta. Cutulet fred. Nun, per sti du parulet, incantese, deliri, passum quella muraia, una banca, una pianta, una banca, una pianta, una curt sterminata, e di cames ascera. E arrivato l'ambasciatore, tanti rom, li rom, l'era. Che cosa volete? Tanti rom, li rom, la. Canten i cames bianc. Vogliamo la più bella, tanti rom, li rom, lella. Che cosa ne farete? Tanti rom, li rom, la. Bevela l'allegria amata che se spampana. Che cosa volete? Tanti rom, li rom, lella. Verum un cudegat per pude liberas di penser andai in oca verum desmentegas de ruveda di Edison che tracola la gent balenga isgaj della guerra tut u la sa de la. Mi seri forse quel tescia del Milo se ti cash troia d'un avvocat giude sconciliadur, chi se ricorda mo alias de quel che seri. Mi come la rigona mun bel come il maestro anon chi sun tel mat capiset canti cui cames bianc magni di piatte tola caghi in del fasulet. Mi son telmate ti, ci son buscon. Te set un patamola, un navasce. Idioti, semidioti, scemi, ciechi, t'ammisi in lista, paralitici, vecchi, impotenti, in quel prospette set, di nostri recoverati, che gu in studi, dedrede quella maista, epilettici, infermi, orfani di guerra, totale numer 2000. Tresenses. T'impara dalla Monica a fai calzet, te fei patin di fer. E se ven la Lilia trovat, te ghede quel che te fa in d'un mes. Brava! Te ghe mai avu, per sort, un cu che lavorava. Gran laminage, sistema vanni, mutur. Te ghavevet quei dunti che te conoscevet. Mamma, te fet la toma intera, ves come la gallina sull'era, e il bue instala, te giugheta la bala, idioti e semidioti, amputati, rachitici, infermi, su una banca de preia come un sac de strash, in semenì, viganun, Casablanca, te rimirete il su che tramonta. Paralitici, sordomuti, iarusen in ca, le ure de mangià, brigisen come besti, arion via limit de gruan, chi chincile sempre festa, le rai, cul ciundullerai d'una quai osteria, spunta un fil de canzon. Chi in scile sempre festa, lirirai. Mon bel vared, casin paese alla lunga discesa, pedalavi bel bel veniendes a Milan. Su che se volta indre, disevi, acqua i pe, scumetiche duman. Machin, machin, zam, zam, motocicletta che sgata, neva, casin amata, e lugiatun del tram. Dopo i dì della U, sera della domenica. Chi chincile sempre festa, l'erai, col ciondullerai, i butiglion anegan i magun. Chi chincile sempre festa, liri, lirai. Usù, al paro un marenghini sto vacca, io sento iniviri, cramento, beta scè, un careghini sto di una madonna. Di chi in scile sempre festa, liri, lirai. Disi che quando ven not, l'unega e ni grappot, la serbui, la rentrona, la piola, ses, cinc, cinc, ses, cinc, ses, cinc, butta scia, briscula del re, zemla, cinc, ses, e gio che le buona, cinc, set, ses, tutta. Vendes chilometrit al dasi, una mesura e gesem, vot, set, mora! Su mensa de limit, beciarit, per la piana, inturna, inturna, al bur che monta là, sciarur de la città lontana. Camions! Sai de car! Machin, machin! Zot, zot! Che se rusen ados, rumben, in quel caldar piumben de tutti part ululen, e cu questi rivi tam che me pesti alà contra chicciar rivi che sun e lì sculta mo cosa vedi mata putana vedi un strus a porta volta reclam del traden horn del fin miracul chi tra du tram in casì trovi un strus, te capì, te capì, sotto un baroc reclam che un strus viv che me guarda.